Giulio, perché gli ho detto che andavo a chiamare mia moglie, poi ci sono salito perché stava, c'avevo voglia di andare in bagno, allora ho lasciato tutto. Allora qua già. Ehi Giulio, scusate, ma sono pure avuto necessità di andare in bagno, sono salito direttamente su. Vi ho lasciato un po' così senza salutare, mi andava di dirvelo, cavolo. No, non è un problema, figurati. Avevo capito che eri già arrivato a casa, non ero già. Questo è ascoltato, non è che poi salte le macchine visto che sei sotto casa tua, è chiaro che sa nessuno. Ma non mi interessa di far scendere l'Iliana, ma non è ancora pronta, quindi. Sono salito su, dai, ho approfittato per andare anche in bagno. Vi saluto tutto il corriere che sto uscendo, e poi magari più tardi ci sentiamo. Giuro, per quella cosa la telefoniamo lunedì e vediamo un po' se sono arrivato, ok? Sì, io non ho problema, già, non è, tanto io vado avanti, temo, e poi te lo consegno anche, poi quando è il momento che arrivano vengo con il trappolo lì un attimo per fare quattro fuori, quattro contatti come il numero, e dunque non è un problema, capito? Se no, se vuoi io ne faccio uno e te ne metto due provvisori, così te ne metto, e dopodiché si mettono le altre due, e cioè quelli che arrivano in maniera definitiva, ma voglio dire, per averlo così funzionale anche dal primissimo momento, anche se le maniglie non sono adeguate, io ti posso mettere due pomellini piccolini, riunite, e così tu lo utilizzi ugualmente, quando poi arrivano si tolgono quelle e si mettono le altre, capito? Va bene, ma già le sono cos'è tua moglie? Per il momento fai quel lavoro e vediamo un po' se sono arrivate e facciamo tutto quanto prima di consegnarlo, se no me lo consegni, non ti faccio il trasferimento ancora, poi quando arrivano le maglie trasferisco il tutto, ok? Va bene, d'accordo, non è un problema. D'accordo già, vabbè, ci sentiamo, dai, adesso io lo chiudo perché mi devo ancora vestire, che sono vestito a metà. Ci sentiamo, ciao Gianni, ciao Luca, ciao Salvidio, ci sentiamo più tardi eventualmente se ci siete ancora. Riprendi pure Gianni, poi fai girare l'ascolto finale e poi chiudo, vai. Certo, anche per salutare Salvidio, che era una vita che non lo sentivo. Ciao Salvidio, e saluto anche a Luca, vai. Io sto uscendo, ci sentiamo più tardi magari, ciao ciao. Ah, passavo tu gli anni, benissimo ascoltato, sperando che tu mi ascolti a mia. Ma che ti ascolti, insomma, un'altra cosa ti devo chiedere, con la storia là, va bene. A posto, quando è tornato ieri notte, dopo Michigan. Ah, meglio così, dai, fagli tanti auguri di pronta guarigione da parte mia, dai, dai. Ci sentiamo, Salvidio, sono contento. Ciao, ciao, anche a te Luca, scusate, ma mi sono un po' emozionato. Grazie Gianni, dai, ce l'ha fatto, va bene, c'è ancora una partita che mi hanno fatto un messaggio. Attenzione sul 10. Tutti là, riprendete un altro caffè. E no, se ne sono andati via, me ne sono andato via anch'io. e ci troveremo le prossime, dai. E via, via, va. Dove sta rientrando? Entrando tutto di lunti. Ma io invece sto uscendo come voglio farlo io, questa recensione la approfittiamo, si sa mai com'è la prossima settimana. E no, la prossima settimana ha detto che faceva, veramente ha detto che faceva proprio acqua chiusa, invece c'è sole e la prossima settimana continuava il bel tempo. Ah, meglio così, allora, già fa piacere un po' di sole. Vabbè, amore, io ti saluto, dai, che sono, che la moglie ha l'allergia all'apparato, quindi quando si siede lì devo spegnere. Ho capito, va bene, ci sentiamo, ciao. Ciao, ciao. Prego. C'è qualcuno sul 10? Attenzione 10? Dove è canale 10? Chi è che sta facendo la chiamata sul 10? Cambio. Attenzione. E avanti, Gisio Maria. Ciao caro. No, Salvatore da questa parte, buongiorno. Ok, guarda poi da parte Mauro, rientro tutto quanto, li punti. Ciao Mauro. Trabacco? Trabacco, trabacco. Voi avete sempre l'eco, quindi siete indistinguibili. Così è. E K. Così lì, fuori Sassari. No, sono salito a piantare segni che c'era Claudio e altre due persone, due CP, e ci abbiamo fatto una chiacchierata e siamo entrati a riposi. A K non lo sapevo, peccato. Sarebbe stata l'occasione per incontrarli in verticale. Ok, vabbè, ma intanto sicuramente ce ne faremo altre domeniche. Ci troviamo e ci possiamo prendere qualcosa con piacere. Sai cos'è, la domenica torna i discorsi dei catechismi dei bambini, sante messe, eccetera eccetera, un po' gli orari vengono un po' alterati. Ma per me quello non fa problema, intanto la richiesta la compagnia mia moglie, la mia figlia, quindi io sono libero, senza problemi. Se ti sente tua moglie sono loro. No, qualche volta siamo lui, ce l'accompagni tu, niente da fare, non l'accompagno, ma come stamattina mi ha detto, ho preso, la porti tu, non porto niente, porta, te la cambio. Ok, no, io mi fa ridere. No, poi oggi era il primo giorno di rientro del catechismo dopo le pause estive, per cui decisamente veniva male. E poi l'uscita coincide con le 11:30, insomma, tra una cosa e l'altra. Vabbè, non si poteva fare a meno. Però no, non sapevo di questo incontro, ecco, su al Chiazzale, anche perché era una settimana che non accendevo l'apparato, quindi sono rimasto poco informato, devo dire la verità, per colpa mia poi, tra l'altro. No, Claudio mi ha detto quelle settimane, lo stava dicendo, infatti dopo mi sono sentito anche al telefono, oh Claudio, non c'è problema, si sale, ci prendiamo una cosa. Cappa, mi dispiace, peccato. È stata peccato, un'occasione persa. E vabbè, spero ce ne siano delle altre. E in quante eravate? Vabbè, 1, 2, 3, in 4, 5, una cosa del genere. No vabbè, anche io non sono salito più presto, perché stavo facendo una cosa, non potevo volare, infatti dopo chiamato a Claudio, ma è sale che siamo ancora qua, che se va bene. Ho capito. Ma cosa sono ancora su? Sei uscito, Mauro? Avanti, chi è? Ciao, salutoni, Salvatore da questa parte. Ciao, caponanima di Salvatore, buongiorno. Beh, è tutto questo scampanellio che c'hai alla fine della portante. Se non ti piace il Salvatore. Bellino. Ti piace tutto? Sì, manca la sinfonia di Natale ed è tutto a posto. Cappa. No, sono qua a casa di Alessio Pomponio e... rifai il passaggio. 1 2 3 1 2 3 1 2 3, prova, microfono cambio. Allora, hai un Santiago di 7 modulati e una radio di 4. Hai un Santiago di 7 modulati e una radio di 4. Ah, va bene, grazie per il controllo, sabato. Cappa. Come mai, Giuseppe? Dove siete in giro? Sono a casa di Pompolio perché stavano facendo un lavoretto alla macchina, stavo mettendo a posto l'antenna, no? E dunque stavo vedendo come stavo uscendo, capito? Cappa. Beh, la radio non è proprio, non è perfetta, però è comprensibile, però non è perfetta. E il segnale è questo qua. E scappa, dai. Ok, e allora buon proseguimento, Giuseppe. Io sono qua, ho acceso poc'anzi, stavo parlando con Mauro, mi ha detto che c'era un... vi siete incontrati a Piazza Lissegni e purtroppo era una settimana che non accendevo, quindi non sapevo niente. Ecco, c'eravamo un po' tutti, c'era Natalino, c'era Claudio Salviero, c'era Mauro, poi c'era altra gente, c'era, eravamo più di una decina di CB. Peccato. Mi è piaciuto, sarebbe piaciuto esserci, però non sapevo niente perché purtroppo per colpa mia non è una settimana che non modulavo, l'ho acceso stamattina e Mauro mi ha informato poc'anzi mentre stavo rientrando a Lippunti che vi eravate trovati e quindi, ma boh, sarà per la prossima volta. Ok, adesso vado là. Ti auguro buona carica, buon tutto, dai. Cerca di entrare la notte, se ce la fai, guarda almeno 4 chiacchiere. E cappa, lo so, volentieri, se riesco a farle coincidere le cose, molto volentieri, come sempre. Ci risentiamo allora, Giuseppe, buon proseguimento. Cappa di Roger, ciao Salvatore, buona tarda, buon tutto, dai. Grazie, ciao Giuseppe. Cappa, avanti, chi è? È Mauro. Ti stavo dicendo che mi ha fermato la stradale, polizia stradale, cambio. Ho ipotizzato, non sentendoti più, ho detto, ma probabilmente è stato bloccato. Infatti, niente, quindi tu non hai fermato, qua c'è di prete, è corso tutto a posto, mi ha mandato tutti, controllino e via. Perfetto, dai, meglio così. Infatti poi a un certo punto mi sono stato zitto perché ho detto non vorrei che creare problemi. Non ho spento, anche perché dopo non ho fermato, ho detto ciao, cos'è c'è nebbia? Io no, perché c'è prima nebbia, ho detto guarda, mi scusi, ma non me ne sono accorto, io ci spengo questo ombre, praticamente nel mio cioè, ma viene controllato di prendere l'assicurazione, passaggio a posto, qui. Vabbè, io ti lascio che sto entrando a bere una cosa e casa ci sentiamo dopo. Ok Mauro, buon proseguimento di giornata e saluto a tutti quanti. E casa mai ci sentiremo stasera là, tanto la cena così facciamo una chiacchierata tutti insieme. Ok, va bene, ciao Mauro, ci risentiamo. Ciao. Dello strumento rimanga sempre all'interno della linea diciamo rossa che indica la LC. Ok, ma mi devo aggiustare il telefono. Ok, di niente, figurati. Ciao, ci risentiamo Silvestro. Ciao, alla prossima. Se l'ha bevuta veramente. cena, cazzo, ma io che la cena. No, l'ho mangiato, tu non hai inteso, ma io ho fatto che stavo parlando con te, io lo sento disatto, io stavo parlando, ero lì a Monova, vicino a lui, al vicino di Monova, a fianco al paese che stavo passando, e l'ho sentito sbattere, doveva battere il bici, sono io. Mi ho girato, gli ho sentito cosa gli ho detto, che gli mettevo la portata, gli ho detto. E una cosa gli ha detto, mi ricordo, lui mi ha detto che lui c'aveva un... Se volevi fare lui, c'aveva un lineare che andava a 600 watt e non faceva più parlare, mi ha detto una cosa gli ha detto, ti ricordi? Ehi, ehi, ehi, tu gli hai detto, adesso ti metto la portata e non parli più. Perché? Io c'ho un lineare... Via Giuseppe nel 45esimo binario cambio. Attenzione, Gigi Vulcano. Già, vedi, tu di questi canali non ci sei mai arrivato, questo è il canale dei ricchi. Che chiappa Gigi, tutto bene? Dio, dai, tutto a posto, tutto ok, dai. Tutto a posto, diciamo, niente in ordine. Cappa di nodero. Signor Pacchetto, qual è che sto cercando Banamardi a Semi? C'ha la voglia anch'io, per avere l'età che ha, si può, Cappa, com'è? Senti come fa bene Banamardi, positivo, attenzione però che all'indietro, diciamo nel lontano 2004 io avevo un baracchino, me l'aveva fatto quello di Terrapa Giancarlo, 48, e io dicevo sempre, e il baracchino riscontra tutto un sale, e dicevo ascoltate il baracchino di Vanna Marchi e tutti che vanno come Vanna, perché Vanna Marchi, il Vanna Marchi io gli ho fatto, lei mi ha mandato, io gli ho portato un carico di sale e lei mi ha mandato il baracchino in cambio, capito? Questo è il baracchino di Vanna Marchi e girava anche su in continente, girava questo baracchino di Vanna Marchi e io l'ho fatto in cambio col sale, capito? Il primo del periodo del sale che faceva quelle cose con del bicchiere di sciogliere il sale e io così come questo 48 scritto nel 45 modulavo con un baracchino di Vallamarco. E infatti vuol dire sempre d'accordo oggi te l'ha lasciato almeno con la registrazione al baracchino oggi sì. Lo facevo anche d'accordo, gli dicevo anche così. Avete mai lavorato Vannamarchi? Lui mi chiedeva, adesso fallo, bello che non questo è il baracchino che mi ha mandato spirito Vannamarchi. Ma è una storia lunga, una storia che è durata, e non dico un po' quello, ma quasi un anno. Aspetti. Questo. Che è amante? Tutto quanto scombussolato. Tu non dici che non c'è nessuno, ho scattato qua, allora facevo un'azione del canale. Non sentivo nessuno, c'è qua il vecchio. Beh, guarda, ascoltalo, sono te la posto la cameretta ancora, va? cassa, perché la no, che tentano è caduta. No, no, no, qua si può dire che c'è, ma non c'è, dai. Poi donne, donne, dico, donne danno. Donne molto. Donne fanno danno, tu dici, va bene. Comunque ti fa sempre piacere, dai, avere sempre una compagnia femminile a fianco. Subito, partito. Dimmi. Tonio. Dimmi. Ti sto arrivando qua, cioè, al ponte nuovo. Come ti sto arrivando nella zona tua? Masso, masso. Masso? Eia. Luca Riece, mia moglie, a vedere cosa sto cercando, che donna sto cercando. Non è per me la, la donna, è per te. Adesso mi sta ascoltando, lui. Per me, diciamo che c'è o non c'è, dai. Guarda, non hai capito, Luca Riece, quando tu parli di altre cose, non sentono nulla le mogli, se le chiedi qualcosa, non sentono niente. Chi ti ha sentito parlare di fidanzate, di donne, come la senti dalla cucina che sta là, insomma, sta facendo e dicendo, cosa stai cercando, quale donne stai cercando, tu mi stai dicendo. Lui. Ora bravo anche tu. Che cosa vuoi mettere in tenere, a lui? Cosa vuoi dire, che le donne sono furbe. Sono molto attente, molto. Sto dicendo, fate le nozze, non mi intendi, ma devi tenere subito, ma tu. Ti dica che cosa, sai come sento, sono lì che... Sì, comunque quella 35enne già mi va bene a me, mandamela Luca, mandamela a me, già mi va bene a me. Va bene, 35, 32 ne ha. Meglio ancora. Le mando a mia moglie in cambio. Sta fresca lui. Senti, me la mando la mia che è vecchia. Questa è la macchina in casa, lui. Allora è in carriera, ragazzi. No, c'è in garage, non c'è più in garage. Che in garage ce l'ho. Ce l'ho, ma non devo dire a nessuno che ce l'ho a casa. Capito. Una bomba su Maracchino, una bomba. Ma stiamo cercando, ce n'è uno colti, proprio un mattone, prova 9 watt. Regolabili, 250 euro. Tutto colto, eh? Non ho capito, o un 48 ho fatto la scheda colto. È un 48 modificato a colt, 280 euro, mi sa, 250. Prova 9 watt. Sì, deve dare 9 watt e mezzo di portante bianca. Non devi andare oltre 9 watt e mezzo, Luca. Come questo qua, non devi andare oltre 9 watt e mezzo di portante bianca, poi può arrivare anche a 30 watt di picchi, però non deve superare, fatti bene, non deve superare 9 e mezzo, no? 9 e mezzo. Ma solo 9 watt. No, comunque lascia perdere, ce ne sta il baracchini, ma se ti buschi un 48 per farlo non ci vuole niente, come quello di Massimiliano. Ho detto che 50 euro mi vuole, ma farlo. Quello di Massimiliano? No, si vuole di meno. Tu per fare il mio, lui guarda la 200 euro, l'iPhone. Il canale ce li ha, il bip da modificare e solo da mettere la scheda a colt. Fuori mettere un po' la fetta di colt, ma non ce la fare altro. Poi il watt vanno bene. Vabbè, poi guarda se fa l'arrivato nei watt. Quando sale di watt, si è finali grossi, È positivo, però Lucaria deve lavorare con 3 watt e mezzo. Il baracchino deve lavorare con 3 watt e mezzo, Luca. Ma è troppo 200 euro lui, capito? È troppo. È positivo, dai, è positivo. Purtroppo è così, vogliono quel tanto lì, capito? Quel tanto lì voglio. Ma invece di 50 euro mi fanno un 48 e non la fu chiunda. E non lo mattessi. Puschi un 48. Ma te lo faccio fare io, dai. 48. Più che bene. Poi ce ne sono tante che se lo stanno vendendo. Anche per 250. Se mi sto vendendo, mi si. C'è doppio modulatore, c'è tutto. Lo sto vendendo 250 euro, vedo. Vittorio, caccio di effetto, mi pare che tu già lo conosci, quel ragazzo lì ne ha positivo, già va bene, fa più che bene. Meglio, poi mi arrivano a infinità di questi baracchini. Ne ho trovato ieri, gli ho tornati, ne ho dato tre. Gli ho tornato, diciamo, quello di Franco Bumera. Franco Bumera fa un bell'eco stesso, se l'hai sentito, tu mi ti piace, ma diceva più forte di questo del razzo. Quello di Franco Bumera. Franco Bumera ti spedisce il baracchino, è tutto nuovo, illuminato di blu, si accendono le luci arancione quando schiaccia, bello, nuovo di pacca, 48 nuovo, non il modello nuovo, l'altro che è migliore, con 350 ti spedisce il baracchino e modifiche. Quelli lì all'interno di questa resistenza ti cambia una cosa impressionante, la tonalità della voce chiara, forte e squillante. Sì, mio così, almeno ecco la commissione, e Giuseppe già arrivata adesso, Giuseppe. Sì, è arrivato. Si è staccato il mattino. Sì, dopo finire in macchina arrivano tutto quanto a notte, tutto il giorno. L'ho portato su e lui mi devo usare su in seguito. Non ti può rispondere, se gli hai staccato il baracchino, come fa a risponderti su questo canale? E che gli ho dato, c'è il baracchino mio, sto usando, nel 2009. Sì, 2009? 2009 sto usando. 2009, così è il 2010. Via. E chiudiamo la porta, quella che mia moglie mi sta ammazzando questa sigaretta. Sto usando il superstato, lui è nove. Sono convinto doppio. Grazie. verde, è blu come questa macchina, sempre blu, l'hanno cambiato, deve essere il display o a cazzo, è blu, ma rimane blu quello lì. Come l'hanno cambiato? No, è blu, adesso il canale 5 qua, è segnato, è blu come il verde, è blu come il blu da Achino. Come l'hanno cambiato? Ho cambiato, me l'ha mandato così, l'ha fatto così, ho mandato il baracchino normale e lui mi ha messo, me l'ha mandato così. Nel frontalino me l'ha mandato, c'è tipo la bandiera americana, c'è tutto quello blu, le stelline bianche, giallo, rosso, la mascherina la mai, fatta in stile americano, l'ha visto. E lui me l'ha fatto così quando l'ho mandato questo baracchino. Ha fatto blu così e adesso è per esempio arancione, diventa arancione, quando muore diventa blu. Capito, cioè è bello. Ma sono soldi, bei soldi sul buono, non mi è mai piaciuto avere tal cosa, spendere soldi così. Però anche per apparecchi diversi fa un po'. Posso avere effetto di costo, magari un altro effetto, cosa ne so, boh. E credere no, cosa la micchiata, queste cose, ci sono diverse maniere, non è cosa sette euro me, è una cosa che tu lo metti, togli tutti i pomelli, tutte le cose, e lo metti e attacca, in adesivo, tipo un lamierino, una cosa che in realtà che si incolla, metterlo, togliere la cosa, tagliare infinitamente e rimane incollato. Capito, una specie di mascherina, era? Ma ho detto che costa 7 euro, ho capito, costa 7 euro, poi le lampadine li cambi, no? È un cambiato tanti di queste lampadine, di questi letti. Capito, se tu li ordinerai internet, io un giorno, questa mascherina che ho adesso qua, questa è nuova, l'avevo ordinata io e me l'avevo mandata già con tutte le lucette blu. A fare la tramite, ma mio nipote l'ho mandato la sabattina, l'ho mandato con la mascherina, tutte queste cose così, nuova che me l'ha rifatta, la mascherina tutta completa, la farina e cose, tutto quanto, l'avevo pagata 34 euro più spedizione, se no costava una minchiata. La spedizione tutta me l'ha costato 34 euro, comprese tutti i letti, i letti già messi nella scheda, sai, c'è quella scheda che c'ha due viti, che c'ha tutte le lampere, il letti il 48, quella ti mandano già completa a me, non è ti mandano tutte le letti, non ti mandano quella già completa, hai capito? Con le letti blu a parte, già quella con le lamparinette verdi, già ti mandano già quella, capito? Tutto completo te lo mandano al frontalino, completo con le luci. Quindi è bello. Ciao, va bene. E poi invece l'ho mandata da stamattina, me l'ha rimandato indietro con questo coso a stile americano, capito? E va bene. Va bene che bene, io gli ho cambiato il display, lo Smith l'ho cambiato da un altro apparato che era bianco, invece di essere verde, siccome quella dopo c'era verde, questo dentro era proprio bianco, bianco, bianco, e con la luce blu e rosa diventa ancora più bello. Lo Smith era il 48 e il colore verde, se non mi sbaglio, era grosso, vero, così è. Così, invece questo degli ultimi, quelli BX, come si chiamano, quegli ultimi ce l'hanno bianco, arriva già illuminati di blu e bianco, e quelli ho messo quello lì, capito, la lampadinetta, sua, blu e via. A Torino? Mi Giuseppe. Ciao, ma io sono sotto Calzaria, come il segnale? 9:20, 6:05, bomba. Ok, K. Di Vulcano, cosa mi racconta da difetto? Cosa ti racconto? Invece da me sei Santiago 8, prova a vedere, mi sembra Santiago 8, non vorrei sbagliarmi, prova Giuseppe. 1, 2, 3, prova, controllo, radio, cambio. Di 8, 7.5, con picchi positivi, dai, 8. Da 7.5 fai 8.5 circa quei picchi, no, va bene. Va bene, se sei in vettura, cavolo, se va bene, va benissimo. Ma siete sul 45? Positivo. Un pranzo di sentiamo dopo. Ciao Gigi, ciao lui, Giuseppe. Ma che sei uscito così male? Chi io? Sì, tu sei. Non ho toccato niente. Sì, con un segnale che sale e scende, sale e scende. Vai, sale e scende, vai da Cugliuppa tu. Sta cominciando, va bene, sto passando. Ma tu chi era? No, prima non stavi uscendo, stavi scorreggiando. Perché ero con il polo, mi ero accorto che ero con il polo di 10 metri e non avevo neanche accordato, adesso ho commutato l'antenna. Buongiorno a tutti. Ma già te lo capivo manco chi fosse io, non avevo capito Claudia, non avevo capito che eri tu. Niente, che stavo facendo scattare questo pezzo per fermo, l'ho attaccato un po' e l'ho approfittato qua, 45 a farlo girare un pochettino. Bisogna farle girare la radio, se no è un casino. Io sono arrivato adesso mi cambio, mi preparo e andiamo a Pappai. Ciao Antonello, Giuseppe, Luigi, non so che ci sia altro, comunque buongiorno a tutti e ben ascoltati. Ciao yeah, Claudio, giù, vai. L'abbiamo lasciato a casa. Ammazza te ne vai da cazzo, maledetto. Ho un cuore qua circa. Giuseppe, ma è bello incontrarsi a volte tutti così la domenica mattina, fare due chiacchiere, ridere e scherzare. Purtroppo ci sono quelli che non possono partecipare, allora rimangono fuori dal gioco. Va bene, dai. Buongiorno di nuovo a tutti e buona domenica. Ci sentiamo più tardi se coincide sul canale che ci sarete, non lo so. Antonello, prendi. Io non sono stato un bisogno, già sarei venuta. La parenca sono un po' di soldi, vedrai che già ci vediamo l'unica mattina e allora ci ripartiamo, capito? Se la volentieri di essere venuto non è problema per quello, non mi va di andare a bere a scocco, non mi va più. Avanti Giuseppe, a proposito Giuseppe, guarda che adesso siamo nei miei canali alti, quindi nella mano con la di mai dove c'è Marchi Ghini, è scritto Marchi Ghini, devi girarla, devi vedere lo scatto, non girarla come pensi tu, fa lo scatto dove c'è verso la M, dove c'è scritto Marchi Ghini, e quelli sono i canali normali, adesso sei sopra, infatti cazzo risulta al centro. Allora qua c'è scritto Marchi Ghini. Lo devo girare, Antonio. No, dove c'è scritto, ma chi deve girare al centro? Deve girare a sinistra. Capito Giuseppe? Faccio solamente lo scatto, devo girare la crepatura, no? Faccio lo scatto, fa uno scattino piccolino. E già è ferma lì. È come l'hai lasciata tu, io l'ho lasciata lì, hai capito? Ero girato verso sinistra. E fa lo scatto infatti, cazzo, ti risulta nella direzione dove c'è scritto M, cioè Mikey Gay, perché infatti nella dove c'è la M che risulta, è giusto. Allora nella M c'è i canali normali, poi in pratica quando sei al centro risulta la G, e in pratica quando sei in altri canali risulta M, capito? Poi lì mi dice che non faccio vedere stasera, se passi qua 2 minuti, te lo faccio vedere. Così ti faccio vedere come si usa sotto e così ti puoi giocare. E scappa, non c'è problema, dai. Adesso siamo sul 45 però. E adesso siamo sul 45, sì. E mai adesso lo giro, verso sinistra e vedi un po'. E io devo risultare, la mano prova dove c'è scritta la lettera M, c'è un po' quella sbagliata, tu guarda la scritta ma chi viene dove c'è la lettera M rimane bloccata. E infatti che alcuni sono i canali normali, quando sei nella scritta N, dove c'è scritto ma chi viene, quelli sono i canali, i 120 canali in pratica. Ragazzi io faccio, devo vedere cosa sta bollendo in pentola, dai, al limite ci ascoltiamo dopo pranzo che sento un profumo di cosa che ci sta attaccando. Del porcetto. Me lo lascio voi poi stasera, me lo fai vedere, Antonio, quando... andate in casini. Scappa. D'accordo. Tenga, d'accordo. Io ho pigliato Laurin, mi stava già facendo male la dentiera. Ponti. Stavamo alla vicina, poi alla fine avevo fatto anche girevoli con le ruote. Vabbè, girevoli con le ruote, però grande, in pelle. La tracci. No, ma non andava più bene. Questa c'è la più bella, più grande, più comoda. L'avevo messa al PC. E niente, io c'ero a Franco in macchina, quindi mi sono diviso, mi ha portato su e poi sono sceso. Tutto qua, ci sono passato una domenica mattina diversa, diversa dal solito. Oh signore, quante cose belle. E lui, Maria Sciano del 2030. Buonasera, zio Falche. Buonasera, e tanto e tanto. Ma oggi ci arrivi, mi, come te vai? Come te vai? Dai, dai, bene, sta bene la cosa. E quale cosa? La radio. La radio sì, sembra di sì. Vabbè, ciao, zio Claudietto. Ciao, zio Falchetto. Buongiorno, ben ascoltato. Sì. Però è di questa cadrea, però balla troppo, balla troppo, e se viene mi balla sul bottone. Ah, beh, sei grave, là, perché c'è un balla, lui. E che mi gira, solo che non ero abituato alla pelle, e quando stai mutando ti si attacca tutta la culuppa. La vero, perciò la pelle sopra. Mamma mia, come sto. No, no, già è bella, te l'hai vista. Grande dell'altra, è un po' più comoda, già va bene, solo che in pelle non puoi stare a schiena lunga perché ti si attacca, quindi vabbè, già ci vuole pigiama fra un po', quindi non va problema. Allora Antonello, cambio, cosa dici? Cambio. No, niente, mi da mattino acceso così tu dovevate salire. Io non ce l'ho fatta, dai, una cos'è e via. Ma comunque eravate abbastanza numerosi su all'incontro alla fine, dai. E di là per intanto stai facendo orecchio di porco. Orecchio di porco? Perché? Ti ha ascoltato quando sei entrato. No, la verità è beh, io come tu che accendo la radio in FM ti ascolti la musica, qui ascolti le persone che parlano e basta, tutto lì, è la stessa cosa. No, vedi, è lì che sta lo sbaglio. E correggimi, dov'è che ho sbagliato? Devi intervenire quando senti la gente che parla, diamo. No, beh, scusa, se non sono nel discorso, cosa ci faccio? È importante partecipare, giusto è già adesso. Giusto è, però sappi Antonio che quando organizzo io la gente mette appresso, non ce ne sono problemi. Io ho dato un orario 10:30, ti posso dire che eravamo anche in anticipo. Il primo sempre arrivare Gianni, come al solito, poi siamo arrivati io, Franco, Falchetto, Giuseppe, è venuto Mauro, c'era Natalino con la moglie, e insomma gli andava bene. A proposito Antonio, guarda che io mi sono dimesso dall'associazione. Ti sei dimesso? Sì, non mi interessa più. Guarda, un mio pensiero poi, tanto alla fine, a quanto pare, dai, non ho nessun valore, comunque partirta lo stesso, la prendo come viene. Io ci speravo, la verità, che le cose funzionavano bene, perché, non lo so, la vedevo qualcosa di positivo, la verità, qualcosa, ci credevo, ti giuro, ci credevo, solo che purtroppo, come si dice, le ciambe non escono col buco. Ho sempre cercato di combattere, nel senso come dicevi tu, come diceva Falchetto, e questo non lo nego, come diceva anche Gigi Vulcano, lascia perdere, tanto non vanno le cose, trick e track, io sempre alla fine dicevo no, ma non è vero, dai, bisogna anche provarci un pochettino, e tutti no, lascia perdere, che tanto non è cosa, un sacco di... di scuse le prendevo come scuse, la verità, e non lo so perché non ho dato ascolto, però giustamente con l'esperienza si va avanti, e per carità, ripeto, io ci credevo, e ho lasciato perdere le cose che avete detto voi, perché giustamente anch'io il mio modo di pensare è diverso dal vostro, come tutti, però devo ammettere che avete ragione, capo, ne azzecco mai una. Non 14 di ottobre. Riprende Antonio, tante cose belle, saluti a te e famiglia, intendiamoci. Saluta a te e famiglia, soprattutto. Ti ringrazio, Gio Falche, anche a Patrizia, ti ha ascoltato, ti dà tanti bacioni, ma tra un po' poi li chiudo forse. Comunque, non c'è problema, ti ringrazio, molto gentile. Io ci credevo, tutto lì, questo è il mio pensiero, ci credevo. Mi avrebbe fatto piacere stare tutti insieme, vabbè, purtroppo le cose bisogna prendere come viene, dai, fascescia a Sazanda, tutto lì. Sappi che col mio ritiro ci sono tante cose che rimarranno molto molto indietro, non prescindere anche da chi mi aveva già contattato per alcune cose eccetera, quindi io ho preso le mie decisioni, non torno indietro, non mi interessa, io rimango sociale, faccio la mia attività radio sia 27 che buona materiale e non mi interessa niente di nessuno, punto e basta. Antonio, chi vuole andare avanti va avanti, l'importante ti ripeto che a me non mi cerchino nel modo più assoluto, proprio vero secondo me. Non mi interessa proprio, è una cosa che non... Forse ci credo anch'io, ma ho visto tantissime cose che non vanno bene, quindi non mi interessa. Ho chiuso il tempo, ho chiuso subito, va bene così. Ok, ok, comunque, ma perché tu dovevi venire stamattina, dovevi passare da noi? Beh, ci hai buttato in tocca a me. Beh, la verità mi sarebbe piaciuto venire, però non ho potuto, ecco, tutto lì. Beh, sarà per la prossima volta, non pensate che ogni domenica, adesso pian pianino ci organizzeremo un po' tutti e comunque ci vedremo più spesso. Ci vedremo più spesso, io ho voluto vederci un po' tutti, farci due chiacchiere tutti assieme, quelli che naturalmente fanno parte di questo canale che con il mio contributo, il contributo di Gianni e altri avevamo un po' messo su. E quindi pian pianino insomma ci vedremo un po' tutti come facevamo prima, dai, nessun problema, è chiaro che il canale domani è di tutti, tutti, tutti, quindi chi vuole entrare, chi vuole uscire e chi vuole rimanere è concesso a tutto, ma le decisioni sono quelle che si sono un po' chiacchierate stamattina. Più fatti, meno parole, più serenità, più fiducia nelle persone e più soprattutto rispetto, perché alla fin fine è quello che la radio chiede, è quello che noi dobbiamo dare per esempio a chi ci ascolta. Per il resto, tutto il resto è noia per Antonello. E qua chiudo il discorso. Vai, perché? Oh Claudio, lo sai che ho scoperto una cosa? Dimmi, Zaffa, che cosa hai scoperto? Allora, stamattina ho detto, non sai cosa. E la sera c'era quei cavettini grigi, te ne ricordi quei cavettini? Dove adesso questi cavettini qua, che alimentavano l'ingresso dell'apparato. Ma non l'apparato, l'apparato a parte. In quel giro lì, dove c'era quel mammut, c'era presente il mammut auto questo lì che viene scendo, ce n'era uno che toccava e non toccava. Allora io l'ho smontato, gli ho dato una stretta di pinza, gli dico che non mi si abbassa più la luce, Gigi, ma Gigi, Claudio, scusami Gigi, ma Gigi sei in ascolto, già capisci. Così è, così è, basta o niente, Falche, che c'è sempre dispersione, te l'ho già detto, ecco perché ti ho detto controllati bene l'alimentazione e vedere un po'. C'era qualcuno sotto di te, c'è qualcuno che vuole entrare? Sono stato la culo di bianco, e non credo, c'è qualcuno che vuole entrare, ci vuole io qui. Ecco, non sei diventato troppo polemico tu, eh? Oh, ti aspetto, devo essere capocollo. Senti, una bella recita invece. Senta, che sto uscendo male sicuramente. Mi sento male. Prova. Ti senti male? No, sto uscendo male, sto malato. No, ma non mi risulta. Come te non ti risulta? Non mi risulta. Prova, 1, 2, 3. Io ti ascolto bene. Non c'è mio che ti dica. No, c'è stato. pacchetto zio Falchetto è perché gliel'ho messo io, zio Falchetto, se no non l'avrebbe chiamato nessuno così. Comunque, avanti Luca. Luca si è spostato, lo intendo. Lo sento su un altro canale. Tu lo puoi chiamare sì così perché sei piccolino e quindi lo chiami zio Falchetto. Io invece lo chiamo Antonio Falchetto perché sono più grande di lui e quindi siccome ho i capelli più corti di lui, allora il prossimo Sparviero, io lo Sparviero è più grande del Falchetto. Siamo, ci vediamo insomma, non so, decibele, tutti ti arrivano già parte, vai tu. Ora 3, 4, 5, 6, ora prova. Io ho detto parchetto, qua, nel Galaxy, io sto dicendo quello che vedo qui giù. Quando mi cercate la freccetta, non mi presenta, solo che tu clavi ma è fermo. Invece clavi, invece parchetto quando parla, quando vola, la stecca si muove più in su, ha dei picchi positivi, insieme è uguale sempre a Luca. Non lo so, vabbè, è un forchetto sì, ma Luca è completamente sotto, quindi non so perché ti arrivi così. E vabbè, dipende dalla letteratura dello Smith. Non lo so. Va bene, sono contento, tutti con lo stesso segnale, sono contento. Va bene. E vabbè, compra anche l'antenna che ho, perché ho visto l'istruzione, c'è un pochissimo guadagno, Dunque sicuramente già bisogna mettere in conto anche quella. Stavo dicendo, aspetta un attimino qua, due secondi, aspetta. Allora, sto cercando ieri, parlati un numero di telefono, perché tu hai team, che sta come ha chiamato le chiamate. Allora, su Ebbenisa, no. Ah, su subito.it diciamo molto tipo e ha messo un 440 nuovo più l'alimentatore. Ma non c'è prezzo, praticamente lui vuole fare uno scambio, ecco, per mutare con altre radio. Adesso io se ti do il numero lo chiami per vedere quanto vuole. Per 40 mi sembra l'ho già visto su eBay. Vediamo. Dammi il numero, non c'è problema, lo chiamiamo. Vabbè, su eBay, subito.it. Aspetta un attimino. Allora, tutte le regioni. No, guarda, Falchetto e Antonello non ho fatto segnale. No, Falchetto qua è quello più forte di tutti. Antonello è leggermente più forte di te. Dice 9.30, lui è 9.35 con picchia 40. Quindi sicuramente quel Galaxy è impossibile. Abbiamo tutti e tre lo stesso segnale. Col Galaxy sicuramente gli ha fatto una apertura a B30 e l'ha lasciato così Vittorio per avere un massimo di segnale. Se vuoi ti faccio una prova, perché io ho la potenza proprio al minimo del minimo, e se vuoi ti faccio una prova se non ti rompe le scatole, vedi un po'. No, aspetta un attimino, allora, come di Sarondo qua. Allora, prendo apparato completo dell'alimentatore, cassa, apparato King TS4340, perfettamente funzionante e imballato. Non so appena esattamente la quotazione e vendo al migliore offerente. O scambio, faccio le mie proposte. Il numero è, io piglia il giornale, pronto, sì. Beh, aspetta, ma tu mi fai il passaggio, voglio vedere se non è. Beh, pronto, io 339. 339 84 58 58 160. Ripeto, 339 84 58 160. E non ti chiama lì, Arturo? Non mi viene, non è nuda. Chiama, pronto, chi parla? 440, mai ti risponde 450, va. TS440, ok, TS440, adesso lo chiamiamo questo paraculo, vediamo cosa ci dice, fammi il segnale Antonello, vediamo se è come dico io, prova. Eia, così sono, la verità, quasi a zero, adesso lo metto un pochettino, vedi un po', 1, 2, 0, 2, 0, 2, 3, appena l'ho toccato, aspetta un attimo, guarda un po' così. Il 40 pieno però satura la modulazione. Ecco, allora lo rimetto come era prima. Aspetta. Ecco qua, questa era come era prima. 35 più 5, 40, capito? Va bene, Falchetto 9,50 e Luca 9,30. E Luca 9,30, tutti sono buoni. Ottimo per la truppa, no, io sono 20 watt, lui sono 20 watt, lui sono 50 watt, va bene? È aumentato? Aspetta. Prova a chiamarlo qua. Se adesso è più tardi, boh. Ti spara tipo 400 euro ora da comprare. Poi, ripeto, se la parica ha problemi, è un'altra cuba. Beh, se lui è sincero e mi dice la verità, io mi presento con nome, cognome e indirizzo. Aspetta che abbasso. Ecco qua. Mettiamo a 20 watt. Ecco qua, 20 watt. Io mi presento, se lui è sincero, non vedo, non ce ne so. Se poi un pezzetto del culo, questo purtroppo non lo possiamo sapere. Si sa solo quando arriva la radio, capito? Poi andava in auto, Sardegna. Va bene. Va bene, va bene. Positivo, capo dell'orometro. Avanti Antonio Falché, e quindi sono mesi chiamato pure l'alimentazione, adesso non si abbassa più il girabracchino. No, tutto tranquillo, cappa di Rogero alla grande, volevo dire il filo toccava o non toccava, capito? Ma adesso la cosa stamattina, però ho toccato il filo, perché mi è rimasto in mano. Aspetta che ti metto a posto lì a te. È tutto oggi, dai, Gaudi, se tu mi stai confermando che la cosa è positiva, va bene. Lui alla grande, ma perché in banca complichi più. Ottimo per la truppa come sempre, ti sento anche molto pimpante, molto bella modulazione. Io l'ho comprato con il BP4, te l'ho detto. Il BP4 l'ho collegato sulla KB23, per non stare a spostare il tarme a destra e a sinistra. Ah, non pare che matto buco, è un buon guardo di altro. Intanto lo lascio sul 6, se i due retaggini metto, ne ho messo uno sulla KB23 e uno lo metto sul coso, sul Zodiac. E così sono tutti con il microfono di tavola. E vanno bene veramente. Faccio il picchio. Senza toccarlo né niente, proprio mancano matta, senza fare modifiche. Nulla, senza fare nessuna modifica, esce veramente bene. Avanti, Anthony. Vabbè, anche a quanto pare abbiamo tutti il microfono a tavola, anche io sto usando l'MB4, tutta manetta, sia l'apparato che questo, me l'ha fatto tagliare, me l'ha tarato così direttamente, e lo faccio strappando, già va bene, dai, non c'è problema, l'importante è che mi sentono. Però veramente io credo di essere il più alto di zio Falchetto, porca miseria. A lui i carroni se lo sentono dopo tiri, a me no invece, non capisco il perché, lui è molto più basso di me. Non pensare molto, no? Noi dobbiamo stare attenti ai varchi che ci sono di ostacoli, perché sì, tu nettamente sicuramente sarai più alto di Antonio, però molto probabilmente hai qualche montagna. Hai qualche montagna nel circondario che per Ottieri non hai parco. Io qua a Ottieri arrivo come Sassari, 9:20, non ho problemi. Con watt, insomma, a questo livello, 20 watt così. Ma Falchetto c'ha una radio micidiale. Una radio micidiale, quella radio non è come diceva lui, con 4 watt e 5 watt, ma la radio che qua abbiamo provato, che infatti ne è abbastanza, devo dire. La zona di Antonio è una zona abbastanza, sembra bassa, ma non lo è. È aperta un po' da tutte le parti, perché mi segue ovunque vado, io nonostante sia in alto, lui mette a pressione, non ci sono problemi. È l'unico che riceve il budgeto molto bene, come me, tutta la zona di Tira, la zona della bassa valle di Macomere, tutte quelle zone lì le riceve, Falchetto, non so se tu le ricevi, ma Antonio arriva bene da tutte le parti, non c'è problema, quindi sicuramente tu hai qualche varco chiuso della zona di Assire, nonostante sia abbastanza alto, capito? Poi su Sassari prova, non se ne fanno, a me di Sassari non mi interessa, se uno è più attaccato, è più aperto rispetto a un altro, è chiaro che i segnali sono quelli, a me di Sassari non mi interessa, mi serve comunicare con tutto il resto della Sardegna, non me la frutta nuda, se da Luca il mio segnale anziché Fondo Scala è in città, io le faccio fuori dalla città, no, non mi interessa. Se tu voglio arrivare quando arrivano gli altri, anche a 100 metri, ho sempre le possibilità per farlo, ma non mi interessa a me. L'importante è che comunichiamo, e quello è importante, e se non chiamo da fuori, devi essere in grado di farti ascoltare e di rispondere, anche se da segnale, basta anche la radio, però l'importante è che ti senta. E quello sì, no, faccio un esempio stupido che poi alla fine, da tra parlare e discutere, stare lì a, come si dice, a da valutare un po' la situazione, adesso per dire, adesso non mi ricordo la verità che di un palchetto che antenna ha, però quella che c'ho io per dire, ha 2,5 decibel di guadagno, è proprio pochissimo, è veramente poco. Tenendo presente, anche credo che non, per la mia ignoranza, è alta 5,60 m come lunghezza dell'antenna, no? Per dire, 2,5 decibel, che è pochissimo, se ti fidi il minimo delle antenne, questo che usando io adesso. Contando che ho questa Turbo 2001, che è alta 2 metri, e ha un guadagno di 6,5, tenendo presente che è molto più basso, che poi sicuramente la grandezza non avrà tutta la sua rilevanza, no? Come grandezza, per dire, quella c'ha più guadagno, più la Turbo 2001 che è alta 2 metri, confronta a questa che è alta 6 metri, per dire a 2,5. Credo che il forchetto abbia la stessa intonatura, mi pare, adesso non lo so. Adesso non lo so, non lo so. Che antenna c'è tu, Falche? Sigma, Sigma. Sigma, ma te tu c'è la Sigma, Antone? No, la Energy mezz'onda. E... no, la Sigma, cioè la Sigma, la Sigma. Con un'antenna che dovevi fissarla con le viti che ti dava l'azienda con i buchi già predisposti, basta, dovevi solamente tirarla e piazzarla, punto e basta, senza radiali. Anche perché c'è la stessa antenna tu. No, io ho perso tantissimo, da quando sono sceso al secondo piano io ho 60 metri di cavo, ragazzi, anche se un cavo buono, però la perdita ce l'ho, non è più come prima che avevo 20 metri di cavo, 15 metri, però non ho piano, quindi ho perso tantissimo, non molto in ricezione, ma quanto in trasmissione, perché quando la portante arriva all'antenna ho perso tantissimo, però non mi interessa. Ho sempre il coltello da parte del magro perché sono in alto e quindi riesco a ricevere tutti e tutti mi sentono, quello è importante. Poi se il segnale è calato purtroppo non ci posso fare niente. L'importante è continuare a fare radio, l'importante è sentirsi, poi quando non mi sentono io mi aiuto e mi faccio sentire per forza, non c'è problema. Avete la stessa antenna anche me, vero perché? Sì, non so se lui abbia dei radiali nella Sirio. Ma dove c'è il radiale tu nella Sirio? No, no, non è Sirio, è Energy. No, senza radiali. Senza radiali. Non so se tu hai visto, se ci hai fatto caso l'antenna di Pomponio. È la stessa struttura, uguale identica, solo che lui c'ha tre radiali, quella è la 5 ottavi la sua. La mia è la stessa antenna però senza radiali, infatti la sua, siccome qua io ho lo schema tecnico di questi due tipi di antenne, allora la sua è, lui c'ha un 3,5 decibel di guadagno, ogni 2,15, la sua è alta 6,50 m, la mia è 5 m, 5,750 è leggermente più corta, la sua è leggermente più pesante ma niente di particolare, c'ha più guadagno lui sia in ricezione che in trasmissione, l'unica cosa che ha in più è leggermente più lunga e con tre radiali, la mia è leggermente più corta e senza radiali, e è una carica in rame che gira, si vede con una protezione trasparente in plastica, tutto lì. Sì, guarda la mia c'è la carica, lo stesso rame con la chiusura trasparente, però ho i radiali, capito? Ho tre radiali, capito? La mia è 6,50 m di altezza, alla finale c'è cioè due circhi, due mappamondi, capito? E niente, è tutto lì. E vedi, sembra così. Può essere anche una stupidaggia, però per avere pedali radiali ti dà qualche virgola in più, è normale alla fine. No, comunque già va bene, dai, già funziona bene. Poi quando avrò l'occasione provo a piazzarmi sul tetto la Turbo 2001, così tanto per prova a vedere. Metto il capo da un'antenna e ci metto quest'altra, provo a vedere cosa ne esce fuori, se cambia qualcosa. Poi tanto per togliermi lo sfizio, dai, un gusto. Quando fai la prova vedremo. Ciao Padiro, smetterò, già va bene, già esci bene, attore, non ci sta bene. Considera che io su tre radiali ne sono rimaste due, cioè che quello da considerare. Comunque tutto sommato va più che bene, dai. Sì, dai, no, già no. Già sono di poche pretese. Esatto, vai Claudio. Claudio riprende, vi saluta momentaneamente, per me un'oretta di stand by, riposino pomeridiano e poi tutta la sera in radio a combattere l'avversario. Quindi vi saluto, un abbraccio Falchetto, Antonello, carissimo Luca, SWL all'ascolto, per me stand by, ci sentiamo fra un'oretta, un'ora e mezzo, dai, sono qua, lascio tutto acceso, non spengo niente, mandiamo intanto la radio per fare un riposino. Ciao a tutti, buon proseguo, vai Antonello. Ehi, buon sonnellino e ci sentiamo più tardi, dai, non c'è nessun problema. Ok, mostra mai che dai, ci si riascolta più tardi, dai. Bene, bene, Claudio. Grazie anche a voi, a più tardi, ciao, passo e chiudo. Ciao. E allora, che dire, Antonio, che dire? Sei stato vicino, ci avevamo preso la cappina insieme. Ascolta, una curiosità, quanto vi avete bevuto di vino all'appuntamento? Ma guarda, dite la verità, neanche uno. Io ho preso una caffeina giusto perché prendo la caffeina, io quando si va una caffeina, poi magari si prende qualche mazzetta, ma non oggi la verità niente. E che dire, nulla, un caffè e basta. Tanto per accompagnare la sigaretta, e Claudio invece? Oh, Claudio mi sa che ha preso caffè come ho preso io, né più né meno. Vabbè che c'è la dieta, quello già è vero, ma la volta scorsa un bel bicchino già se l'ha bevuto, buono quel vino bianco l'ultima volta, già è stato bello. Niente di particolare, in queste notti non ti stai per attaccando, no? Le darò per una, le due, le tre, le quattro, le cinque. Ma guarda, la verità, attaccata stanotte, tutti i cadaveri. Si è attaccato nessuno ieri notte? Ah, tanto che siamo le notte e mezza, io sono 10. No, io parlo dalle 2:30 su, Due e mezza su, sì, già non dici, no, io chiudo a mezzanotte e mezza. Quando è andato via Franco, era andato via verso le 10:30, sono entrato a mezzanotte e non quarto, c'era Antonio come uno, il tuo vicino con Sandro Cona. Ho fatto due chiacchiere, poi sono rimasto con Sandro Cona e ci stavamo passando due dati su un amplificatore lineare che deve modificare, poi a mezzanotte e mezza ho chiuso, ma non c'era nessuno. Gianni con Giuseppe tra loro tutta mattina erano al concerto, ma io ero a casa, solo c'avevo gente, quindi era tutto acceso qua. Infatti prima quando è andato via Franco, prima di spegnere tutto, ho sollevato il volume, ho sentito loro due, mi sono trattenuto un'oretta, sino a mezzanotte e mezza, non di più. Certo, alle due c'è un via coscia di donna io. Io sono rottambolo. Infatti, con le capo d'occasione che mi sono saltato alle 5:10, che avevo sentito a Gigi, stranamente avevo cercato a te Falchetto, no, dice, ma è strano Falchetto, non si è fatto sentire. Sicuramente ancora gli piace il cuscino. E poi alla fine mi hai confermato che lì nascosto, ma non potevi parlare, diciamo, per non disturbare in famiglia. Io ho sentito tutto il discorso, volevo intervenire, ma giusto per non disturbare ho preferito ascoltare tutto lì, ma ho sentito tutto il discorso. Certo, se mi toccava non intervenivo, mi è toccato due volte alla testa, se mi tocca la testa, mi ha rotto. Perciò il mio coso, il mio angelo custode che vi ascolta e poi mi riferisce tutto, quindi già lo so che la notte ci sono, dopo l'una di notte ci sono in questione nottambuli, quindi io che la penna, perché a me mi tengono tutto sotto controllo, e poi mi riferiscono. Attenzione, bisedi! L'importante è fare il QSO senza cercare nessuno. Allora faccio così, la prossima volta, siccome quello tu ne fa il chetto, no? E quando chiamo non risponde nessuno, lo fate incazzare, gai intras. C'è stato, mi sa, un break sottofondo, facciamo entrare il break, avanti. Ma che ha fatto lì nel sottofondo? Speriamo che abbia fatto quello buio invece di una bocca. La comunità fa me vedi Claudio, mi... Però intanto la bocca non è buona, ha detto tu occhi dosso, quindi se lo cura quella cosa non può fare quello buio. Vabbè. Dai, va, se vado a riposarmi, va. Allora, perché mi gira tanto sette monelle, no, comunque sto scherzando. No, qualche volta già mi ascolto io, ormai è troppo tardi per me, no. Mi viene sonno, quindi niente, adesso sono in ferie. Da oggi, perciò magari partecipo anch'io e poi siano notturni. Se non mi addormento nella sedia. Dai, Antonio, ripetila, ci sentiamo dopo, ciao, qualche. No, volevo dire, se intervieni ai QSO mattutini, diciamo, notturni ma mattutini, già lo sai che io parlo solo domenico tardamente, già lo sai. Già lo so, tu, per tutti i dì. Per maledico ci sono sempre, vuol dire che sono gelosi, che non possono entrare, capito mi hai? Va bene, dai, buon riposo, godevo tutto, dai. Vai a Torello. Eia, buon riposo. Ma, come una curiosità, ma sul 45 sono... non modulano più i camionisti? Ma guarda, io sul 45 c'ero poc'anzi con Gigino che stava provando la radio. I camionisti, cioè non è che si possono cercare le... diciamo sul 45 nei giorni normali, cioè più o meno quando si apre la preparazione è diverso, capito, là io tu. Alla fine bisogna andare, lasciarlo acceso e aspettare lì. No, perché ci ho provato un po' di giorni, però ho visto che era sempre deserto il canale, ho detto va, stranamente non lo stanno più usando, vabbè, quello già per la propagazione, e già si vede come gira un po'. Dobbiamo trovare l'occasione giusta tutto lì alla fine. Sì, non è così, a meno che non trovi proprio il camionista, tipo il figlio di Gigi Vulcano, che ti dice passa sul 45, si gira sul 45 e si fa il QSO tutto lì. Il nome forse era un break, avanti. C'era, ma è sfuggito, porca miseria. Ci dispiace? Era lui forse. E oggi la serata come la faccio, Falche? Andando come al solito. E Dio mio, ma tutti vecchi siete? Antonello. Eia, avanti. Ma ti chiamo Antonello. Tu hai un pretese. Ma forse c'è meglio Antonello Pompone. Preso la sua. E dopo compreso, ma ha fatto subito veloce, 9 più 10. Avanti. Ah, si è bruciato tutto da noi. Sicuramente. Illustrami, cosa hai mangiato già a pranzo? Allora, oggi a pranzo mi sono fatto, giustamente perché a me piace la verità, pasta in bianco, tonno, burro e formaggio. Una bella bistecca, un po' di salata e vai. E anche io la faccio così, pasta, burro e tonno, già è buona, No, è un lacco. La mia si vuole fare con gli me la male con gli buona, buona, poi ci sta bene, col tonno. Ci sta diventando l'olio però, Anche l'olio del tonno, molti lo tolgono, io lo lascio direttamente. È troppo di lusso. No, no, no, no. Io come apro la scatoletta, butto olio e tonno, poi ci metto però un pochettino di burro, formaggio di parmigiano reggiano, mollico tutto e via. E quindi mi interessa tanto? Ma no, non è vado matto, la verità si dica, infatti mia moglie mi dice sempre, ma questa parte, dammela così tu la fai dirmi, a me piace maniera così. Ma se qua c'è la pittura, vieni. Dovrebbe essere il vulcano, dice che ci mette anche la scatoletta in mezzo alla pasta. E quello acido, senza denti ma riusciamo a vaccinare. Ciao Gigi, ci sei tu. Ecco, ma sono lì questo volume, porca miseria. Sono incognito, capito, buonasera a tutti, già riprendo fra un pochettino dalla postazione fissa. Per quello è che stavo dicendo io. già va bene, vai a dove. Buonasera Gigi, ben sentito. Dove ti trovi a quest'ora? No, non so se ne vede, capito, tanto che non mi ha fatto mia moglie, sono andato al bar, capito, sono preso al bar. No, non si è andato di casa, come è entrato a cielo così e ho sentito che stavate parlando di scatoletta e via dicendo. E ho detto, io caldo l'ho fatta io oggi, condimento della pasta, per non mangiare la sempre al sugo, quella anche io oggi tonno, però senza butto olio di oliva e cipolle, tutte fatte soffriggere insieme al tonno, finché poi condita la pasta. Già va bene, prosciutto anche il mio falchetto, siccome dice senza dentiera, già fatica anche le scatolette. Positivo. No, ma bianco però rispetto a me piace anche come così detto a Giulio, però lo suo io lo faccio con l'aglio, lo faccio con l'aglio in mezzo a luglio così poi la condisco, capito? E mi piace pure così togliendo l'aglio, però togliendo l'aglio se non come in mezzo dopo mangiato. Va bene, avanti il mio falchetto. Dagli qualche altra ricetta, chi è famido, Gigi? Sì, diciamo che confermo quello che dice Gigi, però so che quando io la faccio la San Giulio, spezzetto tutto il prezzemolo e l'aglio e metto tutto assieme. Ed è la cosa proprio, diciamo che sì, ti lascia l'alito un po' dell'aglio. No, piace così, Gigi, piace così. Devi mettere l'olio, metti l'aglio e lo fai scaldare appena, se no si brucia diventa nero. Prendendo, il prezzemolo glielo metti dopo, no, se lo brucia. Il prezzemolo va messo dopo, capito? Dopo il prezzemolo. Se no lo brucia, lo carbonizza subito l'olio caldo, capito? E quello è vero, anche quello è vero. Sì, se non lo mangia è buono, piace molto. Vai Antonello. Via. Allora, c'è una confezione di funghi normali, li ho messi al forno, gli ho fatto uscire un po' l'acqua, dopo che le gemme sono asciugate, un pochino di olio d'oliva, prezzemolo, un pochino di sale e benimide. Scusate, ma veramente non perdi niente, se rimane fai bollire i funghi, se fai bollire col sale, giusto? Poi li scorre e lasci così, e il fungo rimane intero come quando era fresco, per cucinare. E poi lo condisci con semolo, aglio, lo condisci dopo, se ti deve capire dopo. Asciugato, capito? Quello deve fare pulire con la... grazie. Ehi, ehi, no, adesso buono, adesso buono. Tutto buono, Gigi, si è fatto un certo criterio e tutto buono. Oh, da considerare che verrà qua c'è anche la Simmental, è molto buono lo stesso, eh. Gigi, stai parlando troppo modulazione, a malapena riesco a tirarti fuori adesso, Scusa un attimo zio Falche, faccio un attimino di bianco, Sì, ne approfitto anch'io, dai, faccio un attimo di bianco, faccio un riposino anch'io e magari ci si riascolta più tardi. Ciao dottore, saluto la famiglia e ci si riascolta più tardi. Ciao Gigino, anche a te, a più tardi. E io ti ringrazio altrettanto, anche per la tua famiglia, ci sentiamo dopo, dai, io lo lascio acceso. Faccio una piccola commissione veloce veloce e dopo arrivo. Positivo, ciao ciao dopo. Piena, cazzo già. Bene, cosa ha mandicato? quello che non ho mangiato. Cazzo, me ne era poco di roba, cazzo, un po' capitale. Ci ho travagato per un esercito. E il fatto che c'era mio fratello, la moglie, mia nipote, il ragazzo, erano visitate qua a pranzo, allora abbiamo fatto un po' di baracca. Cappaga, dice va bene, ogni tanto stai ti dice ma fa bene. Cappaga, e allora, siete stati bene? Cappa. No, io non ho mangiato tantissimo, ho mangiato gli gnocchi di patate, una torta salmonata e basta, una fetta di melone, boh, non ho mangiato altro, il caffè e tira gamba. E vabbè, sei coricato. Cioè sì, ma proprio in questo momento mi stavo facendo, no, dopo, subito dopo ho cominciato i lavori. Allora, li ho iniziati stamattina e li ho terminati adesso. Adesso con la pulizia, perché dopo che faccio il lavoro lascio tutto pulito, non lascio mai tracce del lavoro che faccio. Scopo, lavo, faccio tutto. Come la prima lo devi lasciare. Vabbè, giustamente, se no anche come lo sai fare, lui ha. Adesso te lo rumenti un po'. Ah, adesso sono stato a baracchino perché così almeno mi faccio una chiacchieratina. Poi come mi viene la biocco. Avviso e mi curi e mi trovo. E cappa. Ero ritornato e mi ha mandato l'altro ugia. Perché me ne bisogna apro la moto e vado a farmi un giretto. Perché c'è una bella giornata oggi, ci vieni. Un bec. E tu c'è. Un bec. Cazzo, c'è un becco, sembra maestrale. Andiamo a pescare. Così. Andiamo a pescare. A pescare. Se ti butti le canne, cazzo, ci portano a noi e le canne a prescio. Avanti, Salvatore, con la buonasera. Ma com'è che mi riconoscete subito? Siamo i vecchi Volpini, vecchi CB, Salvatore. Alla moderazione noi la conosciamo sempre. Buonasera a tutti, anche a quelli che ci ascoltano e che non avranno mai il coraggio di entrare. Ah, Andrea e Giuseppe oggi, Salvatore oggi è alla carica, vai Salvatore, c'è la tira a vedere il cantante che c'è a latte dolce. Cantante che c'è a latte dolce? Perché ci sono cantanti a latte dolce? C'è la festa, no? Anche oggi c'è. C'era, come si chiama Giuseppe quel cantante? Quello che canta quando i bambini fanno... Ova! Esatto. Ova. No, negativo. Ieri sera eravamo in tutt'altre faccende affaccendati. Fatto uno spettacolo, ma vendemmiando stavate? Vendemmiando? No, già vendemmiato da un pezzetto, da una quindicina di giorni, anzi no, di più, 20 quasi. Tu il terreno ce l'hai? No, negativo, non ce l'avevamo tanti anni fa, ma era un olivetto. No, mio suocero qua ha una campagna e ha vendemmiato il 13, se non ricordo male. Ha fatto bene a vendemmiare perché adesso se piove è rovinato tutto il raccolto dell'uva, a base di diventa cucciucciosa, come diciamo noi a Sassari, tutta piena d'acqua. Sì, ma adesso sarebbe anche tardi, Dio mio, è già, sarebbe quasi 20 giorni dopo, sono 25 giorni. Avanti, Brecco. Buonasera, Gianni, amico, la rosa, dai, qui è Gianni. Oh, Gianni, buonasera, dai, sempre con l'antenna rotta stai uscendo. Relativo, dai, la stazione qua di Gianni Dinamite ha chiuso, è dato il fallimento, chiuso battenti, sto parlando dalla macchina. Ma pagato, perché è chiuso battenti? È tutto quanto euforico facendo questa stazione già. Dai retta a me, me la vuoi dare retta a una persona che c'è più di 32 anni in frequenza? prenditi una mantova, vedrai che quella mantova lì non te l'aspetta, manco ti senti ammatti, ti metti un tubo d'acqua. Un tubo di quelli d'acqua, ti prendi una mantova e vedrai che non hai più problemi con il vento, perché resiste a 120 km orari. Guarda, io ce l'ho 9 anni e il vento da me tira, tutto il maestrale tira, poi c'è tiranti doppi e via dicendo. E non mi c'è mai mossa. Non so se state il tubo, si poteva anche farci quel tirino, ma non è il tubo che ti butta a terra, mi piega la stella, me la fredda, e ne ho cambiato tre già, dai, tre ne ho cambiato. Una faccia, finita, dai, più avanti, non lo so, il 2012 mi prenderò. Per il momento, infatti volevo salutare un po' a tutti perché sicuramente mi farò sentire molto poco, guarda. Oh già, stai sbagliando tu, non ti devi buttare giù in queste circostanze qua, devi cercare di trovare una soluzione, perché se tu non ragioni, non ascolti, allora basta, tutto, finiamo lì, però io te l'ho detto, prenditi una manto, ma dopo se ti si tronca, vieni me la tronchi in altri padri, ma tanto non lo farai mai, perché quell'antenna resiste al vento, lo so che ti rompe l'antenna, perché l'antenna ha un alluminio troppo fino e te l'aspetta, normale. Comunque Occhi di Gatto mi ha detto che se le rapporti a Sassari te la giusta lui. Allora, chiedami una cosa, io lo seguo alla mantova, e se ci metti la testa, con quanto 2 metri di radiali, giusto? Io ho un problema di altezza, perché quella che avevo prima era 6 metri e mezzo. Comunque dai, in conclusione non regge il vento, troppo forte. Volevo sapere, ma la ringo della Nemo, quella che ci dà l'antenna da 35 euro, no? Sarebbe la stessa di me, più o meno, comunque è la casa madre della Mantova. Ma che aspetta a facendo la Mantova, come quella di che ci dà l'antenna? Allora, non è la casa madre della Mantova, perché la Mantova non è l'EM, la Mantova è Sigma. E quindi è una diversa casa, prima cosa. Poi la Mantova regge il vento, se mi vuoi dare retta, mi dai retta, se no già, fai come ti pare. Io con gli ottusi c'è da fare poco, se tu mi dai retta vai avanti, se no, te lo sto dicendo, non perché sia presuntuoso, ma perché c'è l'esperienza. Avanti Salvatore. Ciao Gianni, ben sentito, guarda che io ho da sempre avuto i tuoi stessi problemi e ho da sempre optato per antenne senza radiali e in fibra di vetro. Io da poco ho messo la mia Sirio, la Game Master, che regge sino a 160 km orari, fibra di vetro. Tant'è vero che quando un paio di settimane fa ha fatto tutto quel vento pazzesco, l'antenna non ne ha fatto una piega, l'antenna si è piegato il palo di sostegno, ho detto tutto, tant'è vero che poi successivamente ho messo un palo diverso con i tiranti, ma sul palo l'antenna è libera di andare avanti e indietro ed è in fibra di vetro, non è in alluminio, senza radiali, e sono iper contento. Se te la guardi sul sito internet, la Sirio Game Master della Sirio Antenne, ne rilevi le caratteristiche ed è portentosa sotto questo punto di vista. Buonasera intanto. Buona sapersi, dai, ma non è che voglio fare lo studio, per carità, lo sai cos'è, che mi dispiace, capito? E fare sacrificio a 3 minuti, 4 km sopra, l'alimentazione, l'alimentatore, cioè, produce e poi passa a poco che c'è la rovina, capito? E ti spaccia tutta la tua passione. Adesso, vabbè, momentaneamente non sto manco facendo niente, quindi non posso andare a comprare. Adesso prenderemo questa mappa, va bene detta. Però se si trova veramente, perché se te gliela tiro in testa a casa. No, vabbè, io spero che non si trucchi, però sentimenti secondo me sono trucchi, comunque. Quando mai non ci sarà un'antenna di 4 metri che sia subito tanto, comunque sì, sempre con le radiali, però è possibile ancora nel 2011 che ci sia un'antenna di 7 metri, così se ti portate in casa, quindi arriviamo a 10 metri. Oh, è fa se tu mettessi uno stiro corto non avrebbe flessione, invece quella appunto perché alta, flette. Cerca di ragionare un po'. Flette e non te la fa spezzare, capito? Con la flessione, cioè con un vento a 120 km orari, io l'ho vista la mia antenna come flette, fletteva solo l'antenna, il tubo rimaneva rigido con i tiranti belli tirati, l'antenna fletteva, si piegava, ma non succedeva niente. E io ce l'ho in un punto l'antenna che prende tutto il vento del mare, tutto il maestrale, quindi immaginati tu, ho messo tutti i tiranti doppi, non ti dico altro. Tutti i tiranti, dove li hai visti? Al palo. Palo? L'antenna mica metti i tiranti. Al palo li metti. Lo metti al palo, io gli ho messo una croce là sotto e una più in su. Capito? Sempre nel palo però. Fatto scendere i cosi a raggi di sole proprio, capito? I tiranti. E non si incrocia uno con l'altro, uno più, una fila su, una fila giù. Ne hanno messo 9 comunque i tiranti. Quindi è consigliato mettere i tiranti direttamente nell'antenna. Perché c'è gente che mi ha detto di mettere anche nell'antenna i tiranti. Nell'antenna, nel radiere di ricezione, c'è qualcuno che li mette la lenza, non tiranti, lenza fina per tenerli... se noi diciamo fermi, ma io non ho mai usato una cosa del genere, l'ho visto a Porto Torres che lo fa. Ho già, scusami, il principio è che questo genere di antenne che lavorano con il vento sono fatte proprio per flettere, cioè deve essere libero lo stilo. La mia è 7,60 m di sola antenna, capito? Ma i cavetti d'acciaio, i tiranti che io ho messo, sono sul palo di sostegno, l'antenna è libera. Guarda, devo dire la verità, voglio fare il sincero e l'onesto, io ho trasformato i tiranti, ma non li ho messi in ferro, chiariamoci, li ho messi in plastica, canapa mia, canapa della campagna, però li ho messi nell'antenna e li ho fatto come le ho detto. Alla pastorale, la sud, a est e a ovest, e la parte di sotto dell'antenna l'ho fatto nord-est, sud-est, scusa, la parte confusione. 60 gradi, però cosa ho fatto? L'ho messa in fila, la tela era dritta e dritta, però ho messo... Cosa faccio con le fasce di cose, di forma? Adesso io non vorrei, ma non è perché non prendeva questa roba, ha dato il contraccolpo, ma ha toccato perché c'era messo in fila, la tela... I tiranti non vanno messi sull'antenna, se è fatta come Dio comanda e l'antenna deve flettere, deve lavorare con il vento. La mia si piega quasi a U con il vento forte al massimo, però poi come il vento smette ritorna in posizione di riposo, perfettamente dritta. A U, cavolo. No, il maestrale comunque non arriverà mai su tutti i chilometri orari. Guarda, l'anno scorso ha fatto, scusa, se supera i 150 cosa se la trovano a Cagliari l'antenna ancora. Bisogna sapere quello che voglio dire io. Un minimo di sicurezza, una corda legata all'antenna bisogna averla. E se fa un vento più forte, se la trova. Poi, no, l'antenna deve lavorare, le antenne costruite per reggere alla forza del vento devono flettere, quindi flettono di quel tanto e vanno avanti e indietro anche per le raffiche. L'unica cosa che ti viene chiesta è la base di appoggio dell'antenna stessa, quella deve essere ferma, rigida, perché quella la devi assicurare per bene, dopodiché l'antenna non se ne va da nessuna parte. Ti farò sapere quando la compro, tanto se li prendo mi prenderò o questa Mantova 5 o sono professo di comprare questa Super 16 radiali, però non mi piace solo una caratteristica di questa Super 16, la potenza di uscita, che invece di essere il 5 e il 3-4 mi sembra questa, solo quello, adesso sono indeciso se prendere o quella o la Mantova. Ditemi voi quale sarà la migliore, o va bene, la Mantova è buona, ma questa Super 16 non dice che non funge. Dimmi quanti di bici ha, di bici guadagna. Secondi ti dico la caratteristica, dai, aspetta, riprende se valentato, mi faccio la breccata io. Ehi, Giuseppe, riprendi tu, dai. E papà. Oh, già, già, questi discorsi, quando una persona non le sa fare, a lasciarle stare alla gente che è in conforto, alla gente che ne capisce qualcosa in più, capito? Che c'è poco a poco della frequenza, a lasciare fare a chi la sa fare, a chi non ne capisce niente, come dice Piazza, l'antenna e tutto quanto, non le deve neanche toccare. Poi io, Tuso, gli dici una cosa, no? No, è come la pensarebbe bassa, vabbè, io il consiglio non mi dà che fastidio, perché ci sta buttando un bel soldi, compra antenne che non servono, compra cose che non servono, ci butta un bel soldi, prova e riprova, poi va a finire che ci mette un capitale normale, prendi una cosa buona dall'inizio, la piazza te ne dimentichi. Io sono ritornato stamattina sono andato stamattina a controllare i pianti e la posizione della mia antenna e sono contento di averla constatata che è sempre perfettamente a piombo. Però l'antenna deve lavorare, cioè se tu sai che in una posizione che prende vento le strade sono due e basta, o vai su un'antenna che lavora con il vento e quindi deve essere libera però di muoversi, ma sai che non si spezza per i suoi coefficienti di flessibilità, o altrimenti ti devi organizzare con quelle che sono le caratteristiche tecniche di ancoraggio che la casa produttrice dell'antenna stessa ti consigliano. Altre strade non è che ce ne sia, le altre strade di provare ad ancorare lo stilo dell'antenna stessa in modi barbari o giù di lì sono impropri secondo me. C'è la buccia della raffia per tiranti, dimmi tu se devi mettere la raffia, adesso ti faccio una lezione come piazza davanti. Va. Non è che sono chiuso, sono un po'... Allora, adesso ti faccio una proposta. Che ti viene a darmi una mano, non ci viene nessuno di Sassari a darmi una mano e anche non voglio dare di colpa a nessuno perché sono sacrifici anche per mio, perdere che va bene, già Riccardo il favore per carità, un maialetto, un agnello, non mi costa niente. Hai visto? Hai già fatto. Il problema è quello, la distanza di anni viene in tutte le stagioni a darmi una mano. Ma non è stato perché la verità si fa, c'è una parte ragione, sì, ho preso subito, però cazzo, la prima antenna che ho avuto non era un'antenna di cinesi, cioè l'ho presa da cinesi, 50 euro, ed era una buona antenna, l'unica cosa che chiamava lo stile veramente piccolino come il mio, comunque l'ho trovato super semplice, frequenza 2630 euro, potenza 5000 watt, potenza 50, 40, SQR 1-1 le 2, a stessa antenna 8, quasi ronda e peso 8, vedi tu? È la miseria. Ottimo guadagno, è una buona antenna dovrebbe essere, è un ottimo guadagno e resiste anche molti watt. Io andrei più su una 5 ottavi già, una volta che la stai piazzando la 5 ottavi la metti e ti dimentichi di toccarla fino a 20 anni se la piazzi bene, capito? Ti dico una base da 5 ho preso su per 16 perché se per 3 fanno quella cosa è bello, capito? L'unica cosa che mi blocca è questa 5 ottavi e non è là, dai, se mi sono pensiero o no. Siamo già, ce l'abbiamo, tutti hanno la Mantova qua a Sassari, quasi tutti, la maggior parte di quelli che modulano la Mantova, o 5, o 1, o Turbo, hanno sempre la Mantova. Escluso me. Vabbè, no, c'è qualcun altro anche che ha antenne diverse, ma è buona anche la tua, non posso dire nulla perché ti ascolto bene. Cosa dici Gianni? L'antenna va vulcanizzata bene dove ci sono le aggiunture, passato bene vulcanizzante senza avere paura di risparmiare. E poi sopra vulcanizzante va messo del nastro adesivo che poi col tempo si staccherà, quello serve solo per far attaccare bene il vulcanizzante, poi basta, tutto lì. la taratura si fa con la molla, allargandola e abbassandola, però ci vogliono due persone, una che sta giù col rosmetro e l'altra che sta su, due portatili, e si dice per dire abbassa, adesso l'ambassatore stazionale, lasciala così, spingila in questa maniera, poi proprio in un altro canale, prima fai il canale 1, poi il canale centrale, poi il canale alto. Li provi tutti e tre e da lì ti cai l'antenna. Ho capito, ho capito. Va bene, va. Se non mi conformizzo. Questo è il metodo di piazzare l'antenna e di farlo bene il lavoro, che non ti entri acqua. Poi dove ci sono, dove attacchi il piede, una volta che tu l'hai attaccato, li metti un po' di vasellina. E poi li fai un giro anche lì di vulcanizzante, di modo che non entri mai umidità. Io di quella roba l'ho tutta fatta, l'unica cosa che... No, tutto si butta alla perfezione, sono andato, ero quella professionale, a posto, non mi ha detto, era perfetta. L'unica cosa che... Ma l'ho fatta, solo che allora l'ho messo i tiranti e me l'hanno toccata lo stesso. E allora adesso prenderemo questa mantosa, vedremo un po' le caratteristiche, però lo sai cos'è che non mi piace nella mantosa? Non ne sono molto sicuro, allora non la prendo la maglietta di persone, insomma. Non so se è fatta come la Ringo, lo scrivo per operare le stazionali, no? Però è ben brutto, è la mantosa, ci credevamo di non siamo molto bello, se non riusciamo mai ad abbassarle a 1-1. Nel caso la mantova si regola dalla molla, si allarga e si stringe, la molla che ha. E non c'entra nulla, lo stilo di sopra è molto giù da dove si regola dalla base, quindi ti viene benissimo, non c'è nessun problema. L'altra cosa è i tiranti, se tu ti metti i tiranti di racca è normale che si rompano. I tiranti vanno messi in nylon, tipo filo da stendere, quelli lì, che sono tutti con il nylon che è tutto intrecciato, oppure quelli arancioni che usano per la roba di mare, imbarcazioni, tutte queste cose qua, quelli arancioni che vendono proprio, se vai a Porto Torres, se c'è un negozio che lo vende, queste cose qua. È corda marina, diciamo, che è tutto nylon puro e non si fascia mai, chi sa, veste sole, pioggia, vento, ti durano 100 anni. Ma sapessi, adesso tanto neanche cosa ce l'ha usare l'antenna, Gianni, fammi un piacere, cosa hai piazzato l'antenna un lunedì sera che io sono libero. Ci sentiamo, andiamo insieme e compriamo tutto quello che ti occorre, che problema, e ti consiglio io che cosa devi prendere, poi vedrai che ti trovi bene. A più avanti Giuseppe. Yeah, è così già, beh, giustamente deve prendere informazioni alla gente che ne sa qualcosa di più della radio, hai capito? Non è perché... non ne sappiamo un po', ci ridiamo dei consigli, vuol dire che questa esperienza noi l'abbiamo già, cioè, l'abbiamo avuta e tutto quanto, hai capito? Io avrei avuto 100 anni di tempo tutte le volte che ho piazzato l'antenna, che ho aiutato gli amici e cose. Ne ho visto piazzate bene, ma quella che ho piazzato io lo sa solo Claudio, addirittura io li ho messo nei tassilli, siccome c'era il catrame nel tetto, per non vedersi il petto del tassello che esce fuori praticamente, le ho passato il silicone nero e fatto puro, non si comprende se è vero tassello, se non è vero tassello, non si capisce, se vero l'occhiello solo di sbuca fuori. Avanti, Salvatore. Io già non mi sono preoccupato di questo, guarda. E tanto là sopra in quel torrino, forse l'unica persona umana che hanno visto negli ultimi 30 anni è la mia persona. E poi comunque io, vedi, ad esempio, piazzando le antenne, io di antenne ne ho piazzato solamente 3 in tutta la mia vita, e tutte quante ho optato sempre per antenne senza radiali, non ho mai voluto avere in mezzo ai piedi radiali e sono stato sempre super contento di questa scelta, tant'è vero che la mia, nell'ultima, l'assilio che ho messo, è senza radiali e il principio che mi ha guidato è sempre lo stesso. Poi tra l'altro ora che in città abbiamo anche questi accidenti di gabbiani che stanno svolazzando sulle antenne, figurati il peso ogni volta che devono sostenere, no? Niente radiali. Gabbiani e curracci, e lui ce l'ho, gli radiali ce l'ho lo stesso mangio provvisionale. No, io i radiali li ho eliminati, poi il discorso dei radiali, tanto la performance dell'antenna, se ben costruita, riesci ad averla anche senza radiali, per cui meno parti ci sono, alla fine meglio è, alla fine meglio è, meno cose di cui bisogna tenere conto, capito? Ma i radiali sono facilissimi da piazzare, ci sono delle viti, lo incassi dentro e avviti e basta, non è, il radiale è così, quello laterale. Il brutto è piazzare, diciamo, proprio l'antenna di per sé, che se non la piazzi bene fica stazionare. No, ma non dicevo per la difficoltà del piazzare il tutto, anche perché ti stai comunque prendendo quelle ore di tempo per poterlo mettere. E in ogni caso il fatto che un radiale comunque necessariamente è una parte dell'antenna che offre una base d'appoggio non solo per i canarini o i passerotti di città che non gli fanno più di tanto, ma purtroppo per uccelli ben più pesanti che ci sono, ad esempio adesso qui vicino a casa è pieno di cornacchie e di gabbiani. Cornacchie e gabbiani che si poggiano sempre con molta delicatezza e con tutto quanto il loro peso sulle antenne terrestri normali e riescono a piegare quelle lì, quindi tu figurati un pochettino se mi mettevo a montare un'antenna con radiali lunghi un metro, col rischio che dopo mi facevo un mazzo per montarla, risalivo su e me li vedevo belle che spiegazzati. Sì, dimostro che quelli di vetrovesina che ho io non si piegano per nulla, ci vanno le cornacchie sopra addirittura, figurati. Una volta laggiù gli ho battuto le mani, gli ho fatto volare, come ha spiccato il volo ha fatto il radiale, traballato un paio di volte, ma non si fanno nulla perché vetrovesina affrettano molto, è come la canna da pesca, quando c'è il pesce rosso che si piega, per intenderci, quelle che facevano qui. Niente, comunque te la do io la spiegazione perché sono più gabbiani e più piccioni, tutta questa piccionaia che si trova, perché ci sono delle persone che mettono da mangiare per i cani, cosa succede? Che invece che i cani ci mangiano i gabbiani e allora ne accudini tutti, gabbiani, corvi, piccioni, di tutto. Tutto un po', perché anche vicino a casa è così, metto a mangiare a questi cani, erano andati, io non dico poverini non darli da mangiare, ma mettili da mangiare e poi porti via la roba, aspetti 5 minuti. Mattino, eh. L'importante è riuscire a sentire, dai. Ah, passa, signore. c'era Gianni a Chiaramonte, Salvatore, Giuseppe va bene, dai, salutore a tutta la notte. Carissimo. Ciao, Salvatore. Ciao, ciao, Falchetto, Antonio, Falchetto. Vabbè, Vanamarchi, buonasera. Ma si è parlato in 10. Ciao Gianni Chiaramonti. Tutto bene? Falchetto, buonasera, che di 10, dai. Tutto a posto, sì, dai. Fisicamente, però moralmente no, dai, per quanto così c'ha personale, però dai, ti va bene. Ciao, vai. Positivo Gianni, ma sei in VM o da Cudea? No, tirata non c'è più, l'avete detto prima, quando stavo in VM, ma non c'è più. Ah, sei in VM allora? Sì, sono in VM. Ho capito, come mai non ci sei più a Cudea? Come te ne vedi, il vento mi ha fatto un regalino, di rompermi una antenna, la seconda antenna, e quindi... Così ho trovato io, te l'ho detto, mettiti un'antenna buona una volta per tutte e già stai 20 anni senza pensare, te le dimentichi, i primi giorni guardi perché paura magari che non si è fatto qualcosa bene, come facevo sai sul tetto la controllavo, ma mamma mi dice proprio dimenticato, e l'antenna è sempre lì, ti assicuro che è sempre lì. Beh, un attimo di fianco perché guarda, ho già, vado il cutiacco a piccolino, ho capito già. Beh, alzata la mano per altri permessi, vai tranquillo Giuseppe, vai, e siamo qua. Affa. Avanti, Salvato. Ah, io mi stavo spostando invece la porta finestra, la persiana della porta finestra che mi sparava un'aria fredda nella spalla, beh, adesso sembra un po' meglio. Oh bene. Oggi c'era una propagazione pazzesca dalla Turchia. L'avete notata? No, io dico la verità, sono andato a fare un giro con mia moglie e quindi non ho avuto l'occasione. Presto l'ho acceso l'apparato ma non ho sentito nulla. Poi sono andato in giro. Tappa, in FM, sparavano che era una bellezza. Ho chiuso un paio di DX, contento, sì, proprio contento. Sai che mi faccio un giro in moto. Ma chi è che mi chiamava? Qua, Gianni. No, vi saluto perché uno vado a fare delle commissioni, due, su pilota, vado ad atterrare che le critiche non bisogna più sapere. Quella cosa vi saluto, colgo l'occasione a salutare, dai, a te, a Gianni, a Falchetto e a Leoncino, ok? Ok Gianni, ricevuto, ci risentiamo alla prossima occasione. Già una volta che ti sistemerai vedrai che ci arriverai molto ma molto meglio qui a Sassari. Beh, rilancio a doppio numero i saluti e poi vedete voi. Ciao Gianni, ci sentiamo, dai. E ricordati i consigli che ti ho dato. Vedrai che sono buoni e non te ne pinti. Ma dai, salutami a tutti. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao Gianni, ciao. Sì. Vedrai che già non te ne pinti, che è una buona antenna quella e mi sei piazzata bene. Fai una spesa unica. Capparoggio, va bene. Chissà che quando la piazza, se ce la farà piazzarla, si renderà conto di questo. Capparoggio. Io qua, a me mi dà anche fastidio perché lui vuole perfezionarsi, però spende molti soldi così, invece se tu prendi uno strumento, un'antenna, un apparato buono direttamente, non devi spendere 100 volte. Beh, evidentemente. Però dipende anche da quanto uno riesce a nel frattempo a documentarsi. Ma in effetti anche ragione Gianni, la fai unica, la spesa la fai buona, cioè tanto è tutto relativo che fai delle spese e poi sono tutti denari buttati, capito? Hai salvato. La fai unica, la spesa è buona, tutto lì. Assolutamente, il detto del spende meno spende. Infatti conviene, io sono infatti di quel parere, sono tra quelli che preferisce comprarne una di cosa e basta, utilizzarla sino a spremerne l'ultimo bit o l'ultimo watt di capacità e poi comprarne una in sostituzione piuttosto che cercare di metterne assieme tanti che non risolvono definitivamente il problema. Quindi infatti anche io ne prendo una di cose e basta. Esatto, ma è così che funziona. Vai già, io faccio un attimo di bianco. Io devo chiudere perché qua sono venuti a riposare, quindi devo per forza chiudere. Al limite riprendo dalla macchina, adesso magari mi resto e me ne esco. Riprendo dalla macchina. Pappa. Giuseppe, Leoncino. Ma Leoncino che sei sceso dal bagno. Sceso, salito e tutti quanti stanno andando avanti e indietro. Vabbè, 2 secondi, ah, le prendo subito. Già perché è il movimento post pranzo, È vero, vero. che riata urgenti bisogni. Oh, anche perché se non guardi caghi addosso, Ma vedi, c'è chi prende la moto e c'è chi ci va con la scala mobile, vedi? Proprio vero. Ciao Giuseppe, ehi, tu te lo saprei, c'è, cioè, ti ho detto mangia di meno. Ti ho detto sabato, ti ho detto. So che oggi ho saputo che eravate tutti quanti in su al quadrato. Sì, abbiamo preso una caffina. È un bel gruppetto, oggi un bel gruppetto, bello. Ne abbiamo discussi. Bello. Ho avuto l'opportunità di conoscere anche Franco in verticale. Poi è venuto Alfarullo, Matarino, con la sua 50, c'era Gianni Piorru, c'ero io, c'era Giuseppe, c'era Claudio, insomma una bella graffetta, ecco. Ok, a me è dispiaciuto perché non lo sapevo, ma è per colpa mia, perché era una settimana che non accendevo praticamente l'apparato, forse dallo scorso sabato. Mi sarebbe piaciuto conoscervi in verticale. Non mancherà l'occasione, noi diciamo che quasi tutte le domeniche mattina siamo lì, dai. Ma è su dove di preciso lì al quadrato? In che zona? Al quadrato in pratica dove c'è quel bar che rimane sotto il palazzo. Quindi verso il tappetino? Ma verso il tappetino? Quelli nei palazzi di Sgarella? Esatto, lì dove si fanno le analisi, non so di che cosa, si fanno degli analisi, in preparazione comunque pratica, dai. Ho capito, capito, che nell'altro angolo mi sembra che sia una farmacia. Esatto, piazza di sì, c'è poco da sbagliare. Si entra lì, nel piazzalino, c'è il bar da trovare di fronte, che c'è un negozio anche di cerealimentare, di avanti, quella gente. Ho capito, che prima mi sono detto che sia uno dei cinesi. Ieri siamo, c'è poco da sbagliare, tu già si vedono tutte le vetture con le antenne, chi più ne ha più ne mette. Io ero l'unico con la moto comunque. Bene, allora se domenica prossima ne organizzate un'altra, anch'io vengo con la moto, qui siamo in due. Eh sì, va bene, va bene. Oi, oi, oi. Vabbè, bella giornata oggi, penso fosse una bella giornata anche per uscire in moto. Ma tutto sommato stamattina, stasera un po' di venticello scalzando, ma tutto sommato sta bene, Qui sto vedendo che sta sollevando, vicino a casa vedo le fronde degli alberi sbattere, che sono una bellezza. Sì, io ho dovuto chiudere anche la finestra perché c'era quest'aria pazzesca. Ma ho sentito un fischiare sotto sotto, vediamo un po' chi è, avanti che vuole entrare. Ma era solo un fischio del canarino, dai. Niente di particolare, salvato. Invece tu mi devi perdonare, due minuti perché ho bisogno di assentarmi un attimo. Ah, vedo a fare come Giuseppe. Okay, vedi, è il richiamo della foresta. Fai tranquillo. No comment. Vabbè, già siamo qua. Martellando e ha dovuto chiudere. dove ho dovuto andare a fare una letterina e niente, dai, tutto qua. Che capa, vabbè. Al discorso di quella questione che era in frequenza, io glielo ho detto, a me la gente quando non sa fare niente, non ne capisce niente di apparato, non si deve neanche permettere deve dare alla gente, a chi ne sa di questa cosa, a chi conosce, e giustamente con tutti quanti gli altri lavori, capito a tu. Andiamo sopra il motorato, chi è che vuole entrare? Mamma mia, e tutti di rodici, so che... Sì, beh, in effetti bisogna dare l'apparato a gente competente, non incompetente. Sono di quel parere anch'io, Giuseppe. Beh, giustamente, quando una persona non sa fare il lavoro, deve chiedere informazioni a gente che ha piazzato e che c'è più di più in frequenza e gli dà un consiglio come piazzare oppure ci trovano, ci danno l'appuntamento e lo fanno insieme, capito? Vabbè, ma Gianni penso sia una persona abbastanza comprensiva, dai, adesso già si metterà anche lui, diciamo, in riga, dai, e prenderà una buona antenna e così più o meno risolverà tutti i suoi problemi, dai, giustamente, si ribatte il vento forte, deve seguire un po' i consigli se vuole andare avanti, se no è dura, Il capo. E così fa che la gente quando non è capace di mettere a fare queste cose qua, come dice il Blocavio, le mani se le deve mettere tutte quante lì dietro, hai capito? Oh, soprattutto deve andare dal sindaco di Proaghe. Gli dà la benedizione e tutto quanto. Esatto, Caparoce, beh, manifeste così, dai. Se poi uno non segue i consigli, segno evidente che proprio non ha idea di ciò che si perde. Io mi sono piaccato tutta la volta che c'ho un problema, all'apparato oppure ho l'antenna, io ho sempre chiamato Antonello e mi ha sempre risolto lui i problemi, hai capito? Mai avere... Non mi sono mai permesso di toccare niente perché non ne capisco niente, però certe cose non ho, devi darlo alla persona a chi è competente, su questo fatto qua. Poi se la tocchi e vuoi fare danno, allora meglio per te che la roba è tua e ti fai danno da solo. Esatto, è quello che dico io. Ci vuole gente competente, quando si danno consigli bisogna sempre metterli da parte, specialmente quando sono buoni, utili per quando devi piazzare la stazione, poi tramite amicizie si può fare più, soprattutto le amicizie giuste e soprattutto persone che sappiano il suo campo, tutto lì. E io sono d'accordo lo stesso con te, Giuseppe, non mi venuto la mano. Dai, a Cesare quel che è di Cesare, non mi venuto la mano. Beh, giustamente, è come tutti quanti i lavori, Antonio, è come tutti i lavori, no? È come il fatto del muratore, tu sei bravo, come maniere, come capettiere, muratore, che si pare... come si dice, l'intonaco e l'intonachino, è come io, cazzo, che mi dice cosa è l'intonaco, non lo so neanche preparare perché non ci riesco, mi dice guarda si fa così così e io provo a farlo, se va bene mi dice ok, se non va bene mi dice guarda si fa in questo modo e impara per la prossima volta. Esatto. Ma è proprio così, no? Diciamo, non tutti siamo nati imparati, però se si segue il consiglio di una persona più esperta di te, se riesce a, come dire, a cercare di, di, se tu ciò che ti consigliano non lo metti in opera, non è perso, siamo per un tratto. Ho tanto male che io te lo faccio vedere come ci fa il muratore, oppure la dotante maniari, manopare deve fare quello, deve aiutare al muratore, quello, o il caffettiere, quello che è, a portare la roba. Ecco, questo si dice, aiutate manovale, quello che deve seguire, a chi fa il lavoro, ecco, e su quello io sono d'accordo, perché quando una cosa non la so fare e mi dice guarda che si fa così e così, cerco di mettere a fuoco come si fa, capito? Vedete come si fa e impararlo io. Esatto. Parole sacrosante. Purtroppo funziona così, cioè inutile che stiamo lì a girare la vedetta. Se una cosa non si sa fare, devi cercare di trovare la persona adatta che la sa fare, ti dia dei consigli, metterli in pratica e dobbiamo cercare di svolgerli, capito? Se tu puoi consigli non li accetti, allora caro mio, non sono io che ti possa indirizzare nella via giusta. Se io quei consigli che ti do non li metti in pratica, buonanotte, allora è come che io abbia parlato in vano, ecco tutto lì. Ci ho avuto a fare di ripararmi le radio, i baracchini, quella roba là, non avrei cercato Alessio, ma l'avrei fatto io, non avrei comprato, cosa si dice, un test, e mi avrei controllato tutta quanta la situazione io, hai capito? Sapendolo fare, mettiamolo in chiaro quello. Se io l'avrei voluto sapere fare, me l'avrei fatto io questo impianto, capito? Senza chiedere consigli agli altri, perché gli altri sì, ti possono dare una mano, come piazzare, come va, come frequenta e tutto quanto. Poi c'è lavoro, è riuscito bene, buon per te, se è riuscito male, cosa ci puoi fare? Infatti, ma è così Giuseppe, purtroppo molte volte si fanno dei lavori in cui il dipendente, non dipendente, non mette in pratica ciò che gli sia stato imparato, non lo mette in pratica e sicuramente che non sia la giusta idea di poterlo fare, tutto lì, capite? Allora io nel mio campo mi ci sono sempre messo fin da ragazzino, ho imparato guardandolo, mettendomi la paletta in mano, io guardavo ma mi ci mettevo anche a farlo, capito? Soprattutto io ho conosciuto persone che 50 anni, 60 anni sono ancora manovali e restavano manovali perché non avevano avuto mai l'idea di imparare, ecco tutto lì il discorso, capito? Esatto, no, ma è importante quello. Se mi dici di collegare delle calce, non ci sono problemi, te le collego, di fare un impianto, di collegare quattro calce non ci sono problemi, perché è facile, perché prendi tutto quanto i cavi dalla madre, dal coso positivo, da dove punta lo stereo, e cerchi di vedere i fili dove sono, positivo o negativo, e ti fai i collegamenti, capito? Però questo lo so fare, però se mi dici di riparare e cambiare una resistenza all'apparato, non te lo so fare perché non so dove mettere le mani, capito? Esatto. Sono quasi arrivato a casa di Pompogno, dai. Salutami